Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Ci dà la vita, ci nutre, ci sostiene in ogni momento, ci fa appassionare, gioire, emozionare. Oggi non parliamo della mamma, ma del cuore. Siamo qui per rispondere in diretta a tutte le vostre domande, per raccogliere le vostre esperienze, soprattutto per chiarire dubbi, fare un po' di chiarezza, ma soprattutto per continuare a stare bene e imparare insieme a stare meglio, partendo dai piccoli gesti, come quelli che vi invito a fare insieme con me. Mettiti seduto, comodo, svuota la testa da pensieri e preoccupazioni. Porta l'indice e il medio al centro del polso. Non puoi sbagliare. Segui la linea del pollice, eccolo lì. Perfetto. Premi dolcemente. Senti i battiti? Bene, allora ci sei. Adesso contali per un minuto, o se preferisci per 15 secondi, e poi moltiplica il numero per 4. Ecco, questa è la tua frequenza, un numero che ti dice tante cose del tuo cuore. Allora, ci siete? L'avete fatto? Oggi partiamo proprio dai battiti, dalla frequenza. Ci dicono tante cose del nostro cuore, ce le faremo raccontare dalla dottoressa Lidia Rotavender, specialista in ematologia, responsabile Centro Trombosi Humanitas e presidente di ALT, l'associazione Lotta alla Trombosi e Malattie Cardiovascolari. Dottoressa, buongiorno. E buongiorno a voi. In linea con noi abbiamo Oscar Giannino. Ciao Oscar. Buongiorno, ciao Nicoletta. Hai contato anche tu? Insomma, abbastanza. Allora, che ci fa Oscar Giannino in studio? La prima ragione che mi ha spinto ad invitarlo è per avere una dimostrazione del suo affetto. Oscar? Questa intervista è scontato che sia così, che c'entra. Ma allora, la seconda, per sottrarlo almeno 5 minuti, 3 minuti al suo lavoro, perché lui è l'uomo delle 36 ore di lavoro al giorno. Quindi se anche voi siete lavoratori instancabili, un po' come lui, ma allargo l'invito anche a chi è tifoso, goloso, innamorato, stressato, appassionato, restate, perché oggi cercheremo di capire quanto il nostro carattere, le nostre passioni, il nostro stile di vita, i successi, gli insuccessi, le delusioni incidano sulla salute del nostro cuore. Partiamo da un dato: il lavoro nobilita l'uomo, lo sentiamo sempre dire e ripetere, ma io aggiungo, anzi ricercatori aggiungono, se il lavoro è troppo lo mette in pericolo. Una ricerca pubblicata sulla rivista European Heart Journal ha dimostrato che le persone che lavorano per più di 10 ore al giorno di media vanno incontro a un rischio di disturbi del cuore del 60% maggiore rispetto a chi lavora per 7 ore al giorno. Secondo gli autori dello studio, chi lavora per troppe ore è esposto a livelli di stress più elevati e non ha a disposizione abbastanza tempo per prendersi cura della sua salute e il cuore ne potrebbe fare le spese. Oscar, cosa ti dice? Come mi dice, secondo questo servizio io sono praticamente con un piede nella tomba. L'unica cosa che mi può rallegrare è che ho altre patologie che aumentano ulteriormente la probabilità, quindi la metto in seconda, terza battuta questa eventualità. Però, dottoressa Rotavender, se è vero che chi lavora troppo rischia, non sta meglio chi è precario, chi con il lavoro insomma ha un rapporto un po' ballerino? Ci sono anche fiorfiori di ricerche su questo. Sì, guardi, è vero che bisogna avere un po' di ragionevolezza in tutto quanto, è vero che c'è un allenamento che permette ad alcune persone di avere un ritmo di vita e un ritmo di lavoro molto più elevato rispetto ad altri. È vero che ci sono persone che hanno una personalità che permette di smaltire più facilmente lo stress e persone che invece la accumulano e poi la somatizzano, come si dice, a livello dell'intestino, a livello dello stomaco. Direi che la cosa più ragionevole è primo rendersi conto del fatto che abbiamo una manutenzione da fare del nostro organo cuore. Il cuore è l'organo, dopo il cervello, forse il più importante del nostro corpo, insieme al cervello direi, è un organo che si muove. Se possiamo immaginare che si muove dal primo momento in cui quelle cellule che vengono fecondate, che diventano un embrione e da lì incomincia a battere e continua a battere per tutta la vita, ha un lavoro da fare molto importante. Ha una sua programmazione, perché ogni cuore, si dice, porta dentro di sé il codice genetico secondo il quale dovrebbe sopravvivere fino ad una certa età, ma ha anche un suo codice di usura, per cui ci sono alcuni di noi che possono sovraccaricare perché hanno un cuore particolarmente robusto, perché forse hanno ereditato dai genitori dei geni che lo proteggono, alcuni di noi invece che hanno un cuore più fragile. Un ricercatore americano aveva pubblicato un libro molto carino che in inglese si chiamava La gioia dello stress, e che serviva proprio per quantificare quanto danno poteva fare lo stress correlato alle varie situazioni della vita. Per esempio, la mancanza del lavoro era certamente una delle situazioni più procuratrici di stress, la separazione dalla persona amata, il lutto in famiglia, tutte cose che ci sembrano scontate, però se noi le mettiamo in fila scritte su un foglio capiamo che tanti di noi hanno tante ragioni per essere cosiddette, per così dire, stressate. Credo che si tratti, cosa ha detto Oscar Giannino, che lui ha tante altre ragioni per essere a rischio, ho capito bene? Sì, ma Oscar ci dà lezione sulla gestione dello stress. Oscar, vogliamo un consiglio da te? Perché? Ma io appartengo a una tipologia evidentemente un po' diversa da quella abituale, nel senso che per me, per come è funzionata la mia vita, per come poi ho dovuto affrontare davvero alcune altre patologie serie, io ho una piccola piccolo vantaggio. Primo, per queste altre patologie mi devo sottoporre regolarmente, cioè non più di ogni trimestre, ai tracciati cardiaci, quindi questo mi ha aiutato, perché a un certo punto io ho scoperto, quando ero giovane, di avere una miocardiopatia aritmogena, si chiama così, quindi sì, ogni tanto parte il mio ritmo cardiaco, che tende a essere già elevato, ogni tanto partono delle extrasistoli, eccetera eccetera, e quindi per un po' noi abbiamo temuto che fosse collegato o aggravato dalle terapie che dovevo fare. Invece è una cosa che mi porto dietro e che certo non è molto aiutata dal fatto che dopo anni ho ripreso a fumare sigari toscani, perché questo non aiuta. Però in sintesi, io quando smetto di lavorare troppo, tendenzialmente le mie aritmie si presentano con la maggior frequenza. Questa è la cosa di fronte alla quale i medici si mettono molto a ridere, però è abbastanza vero così. Del resto, però, ripeto, io mi tengo molto sotto controllo, e questo è il consiglio che posso dare a tutti. Oscar, quindi tu sei super controllato e riesci anche a gestire il tuo stress. Noi vogliamo un consiglio, lo vogliono soprattutto gli ascoltatori di Essere Benessere, i tuoi ascoltatori che mi scrivono, ecco, vogliamo il segreto di Oscar Giannino. Non so a quale segreto si riferiscano, ma svelaci un tuo segreto prima di salutarci. Il mio segreto è che quando mi capitano gli episodi, e purtroppo a quel punto il battito può accelerare molto per decine di secondi, che per chi non ha una certa, diciamo, frequenza con questo fenomeno, soprattutto all'inizio, sono spaventevoli. Ecco, naturalmente, se mai dovesse capitare una cosa simile, precipitarsi a fare tutti gli accertamenti se non sapete di che si tratta. La cosa essenziale, spiegatemi dai medici anni fa, oltre quando è necessario prendere farmaci, è che ho imparato non solo a mantenere il controllo dei nervi quando questo capita, ma con delle tecniche respiratorie ad aiutare molto, e posso garantire che funziona a quel punto a fare durare l'episodio non troppo. E il fatto di poter governare con la tecnica respiratoria, aiutando il muscolo cardiaco, è una sensazione di controllo su se stessi che secondo me è l'acquisizione di una certa consapevolezza di come, non perdendo il controllo dei nervi, si può essere in onda con il muscolo essenziale della nostra vita. Allora, un consiglio di salute e di benessere firmato Oscar Giannino, il che è una garanzia. Oscar, un abbraccio. Ci vediamo domani. Grazie. Dottoressa Rotavender, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di misurare la frequenza. Abbiamo fatto questo semplice esercizio e abbiamo anticipato che la frequenza ci dice tante cose della salute del nostro cuore. Ma che cosa in particolare? La frequenza è quanti movimenti il cuore esegue nell'arco di un minuto. È un numero piuttosto variabile. Se per esempio siamo emozionati, la frequenza aumenta. Se abbiamo la febbre, la frequenza aumenta, e di solito aumenta di almeno 10 battiti al minuto per ogni grado di febbre. Se siamo spaventati, quindi le emozioni possono aumentare la frequenza. Quello che importa è che questo non sia uno stato abituale e soprattutto che sia ritmica, cioè che sia pur aumentato il numero dei battiti al minuto, ma che rimangano sempre ritmici, quindi che non ci siano degli intervalli diversi fra un battito e l'altro. Ma c'è un numero ideale che dovremmo augurarci di trovare? Dovrebbe essere intorno a 60 battiti al minuto. Poi le persone che allenano il loro cuore per per esempio avevamo un esempio fantastico in Fausto Coppi, che aveva una frequenza bassissima intorno a 40 se non ricordo male, e questa era espressione del fatto che lui aveva allenato il suo cuore, quindi il suo cuore riusciva a battere con molta efficienza, quindi come effetto pompa per la spinta del sangue nella circolazione funzionava molto bene, perché ad ogni contrazione spingeva una grande quantità di sangue, quindi faceva dei movimenti più radi nel minuto ma molto più efficienti. Andiamo a Napoli, c'è Ciro, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666, il nostro profilo Facebook. Ciro, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e ai radioascoltatori tutti. Ascolti, io sono un ultramaratoneta e quindi sono molto allenato e ho praticamente a riposo circa 45-46 battiti al minuto. Vorrei sapere se un'eccessiva bradicardia possa portare a dei problemi, ecco, questo ritmo molto basso nella vita normale. È chiaro che quando corro mi dà dei benefici. Certo, perché Ciro, lei è un atleta, la dottoressa Lidia Rotavender citava Coppi, dottoressa, certo. Dottoressa, se lui è qua abbiamo un altro Coppi praticamente. Se Ciro è un maratoneta, ha proprio scelto uno di quegli sport che hanno come obiettivo proprio quello di rendere il cuore più efficiente e meno frequente nel suo ritmo, e quindi direi che è un cuore che è abituato, non deve avere nessuna paura del fatto di avere mediamente 40 battiti, è diventato la sua frequenza abituale. Dottoressa Rotavender, ma chi deve controllare con una certa frequenza la propria frequenza? Dunque, intanto qualche volta quando la frequenza aumenta lo si sente, ed è una sensazione abbastanza curiosa, perché si sente il cuore battere in gola o si sente un frullare d'ali di farfalla in gola o nel petto. Chi lo deve fare? Intanto dovrebbero farlo per esempio i ragazzini, che non lo faranno mai, però certo, potrebbe essere un giusto esercizio da fare a scuola, potrebbe essere che in 10 minuti nella lezione di scienze l'insegnante insegni ai bambini, esattamente come avete descritto voi che è perfetto, a trovarsi il polso e a misurarlo, fra l'altro è una cosa che ai bambini piace molto. Le persone molto magre che dimagriscono molto improvvisamente in breve tempo e non sanno perché non è correlato a un cambio di alimentazione, perché potrebbero avere una tiroide che ha cominciato a funzionare un pochino troppo e quindi avere un ipertiroidismo che non si è ancora manifestato ma che si manifesta all'inizio con un aumento della frequenza cardiaca e con un aumento del metabolismo, per cui si consuma di più di quello che si è abituati a consumare. Ovviamente andando avanti negli anni la devono controllare la frequenza le persone di una certa età, ma soprattutto la dovrebbero controllare le donne in gravidanza. Per esempio, le donne in gravidanza hanno circa a metà della gravidanza 1,5 litri di sangue in più rispetto al loro normale. Vuol dire che il cuore sta pompando, anziché 5 litri di sangue al minuto, ne sta pompando, ogni 2 minuti, sì, veramente fa tutto il giro, ma comunque anziché una massa di 5 litri di sangue ne ha una massa di 6,5, che non è poco. E quindi sono tutte, diciamo, situazioni particolari nelle quali è bene dare una controllata. L'altro momento in cui bisogna per forza controllarle è quando ci si rende conto o si ha la sensazione che il ritmo non è più regolare. Quindi che diventa, che salta, che perde qualche colpetto, dottoressa? Esatto, sì, tanti lo riferiscono come aritmia, tachicardia, extrasistole è un termine che quasi tutti conoscono, che di per sé non è un termine che indica qualcosa di negativo, può capitare a tutti di avere un battito che salta. Non va bene quando, misurando la frequenza e sentendo il battito, si vede che questa irregolarità è costante. Allora si va a fare un elettrocardiogramma. Dottoressa, Oscar ci parlava della respirazione. Sì, sono d'accordissimo. Ecco, ci sono, oltre alla respirazione, ciascuno di noi può mettere in pratica questo piccolo suggerimento di Oscar Giannino, ci sono comunque delle tecniche, degli studi che ci aiutano in qualche modo a rilassarci e a tenere il nostro cuore allenato sano. L'espulsore più efficace dello stress è l'attività fisica. L'attività fisica consente di consumare non soltanto tutte le endorfine, che sono ormoni dell'umore che si producono quando ci si trova in situazione di stress, ma anche a rimettere in ordine la pompa cardiaca, a consumare le tossine che si accumulano in situazioni di stress, e quindi direi che se una persona si accorge di essere particolarmente sotto tensione e stressata dovrebbe fare dell'attività fisica molto regolare tutti i giorni. Ecco, non occorre fare grandi sforzi, perché la definizione di attività fisica fisica per l'OMS è assolutamente rassicurante. Ci scrive: perché un'attività fisica si intende qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo. Quindi, se vi alzate, andate al telefono e componete il nostro numero verde, avete già fatto un passo avanti, qualcosa per il vostro cuore. 800 24 00 24. Intanto che voi ci chiamate per raccontarci che cosa vi sentite fa bene al vostro cuore o che cosa vi pesa sul cuore, potete anche scriverlo al 349 238 6666. Vi porto a fare un piccolo viaggetto sul sito Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità, un sito di cui vi parlo spesso perché è fatto molto bene, ricco di informazione utile, che ci racconta in breve i vantaggi di fare un'adeguata attività sportiva. Praticare esercizio fisico in modo regolare e moderato aiuta a perdere il sovrappeso, migliora la pressione arteriosa, brucia i grassi e migliora il tasso di colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire e controllare il diabete, è un ottimo antistress, fa diminuire la voglia di fumare, è un buon modo per socializzare, è il miglior cosmetico. È il miglior cosmetico, dottoressa Rotavender. È vero, è tutto vero. Sa qual è il problema? Che queste cose noi le sappiamo da circa sempre, diciamo da sempre, ecco. Ma sono così semplici che sembrano quasi banali e tendono ad essere sottovalutate. Se io racconto a una persona che per prevenire un certo tipo di malattia si deve arrampicare su un percorso difficilissimo, è probabile che questa persona lo faccia e mi creda. Se io spiego che il sovrappeso, il controllo della pressione, l'alimentazione, lo smettere di fumare sono fondamentali, questa persona tende a sottovalutarmi, perché è come se desse per scontato che tutte queste situazioni, sì, va bene, lo sappiamo, ma non ho voglia di farlo. È più facile per una persona prendere una pillola che non pensare con costanza di ridurre il suo peso, di smettere di fumare. E invece questo è un peccato, perché vuol dire a 40 anni diventare dipendenti da un farmaco, per esempio per ridurre il colesterolo, se non si tratta ovviamente di un livello di colesterolo elevato per ragioni familiari, ma vuol dire peccato, perché vuol dire dipendere da un farmaco che bisognerà prendere praticamente per tutta la vita. E allora si fa se c'è bisogno, ma se io ho un sistema molto più semplice, meno aggressivo e meno, fra virgolette, mi passi il termine, velenoso, tutti i farmaci, certo, sono velenosi, penso che sia giusto comunicarlo e penso che sia giusto cercare di convincere le persone a farlo. Quindi il colesterolo è un grasso, viene consumato se facciamo attività fisica, ne possiamo assumere meno se controlliamo l'alimentazione, ne possiamo assorbire meno se mettiamo in ordine il nostro intestino. Una volta che ho provato con costanza e serietà questi tre sistemi, allora se il mio colesterolo rimane alto il medico mi potrà prescrivere un farmaco. Ma perché passare subito al passo successivo? È lo stesso la pressione. Dottoressa, oggi noi vogliamo raccontare ai nostri amici da casa che al cuore piacciono le cose, molte delle cose che piacciono a noi. Il cuore infatti sta bene quando è innamorato, questo è sicuro. Gli piace anche divertirsi, gli piace ascoltare musica, adori i colori, la varietà, le buone letture. Allora, amici da casa, scrivetemi o chiamatemi per raccontarci che cosa ha fatto o fa bene al vostro cuore. Un gesto, una parola, un'emozione, una tecnica di respirazione, un nuovo fidanzato. Il messaggio più bello, più interessante, più incisivo, che ci insegna meglio degli altri a stare bene, riceverà, grazie alla collaborazione con IBS, la ragazza del mio cuore. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati, poi andiamo al meteo. 800 24 00 24 349 238 6666 per ricevere a casa la ragazza del mio cuore. E noi siamo ritornati insieme oggi, una puntata dedicata a tutto quello che piace e fa bene al nostro cuore, il motore della nostra vita. Abbiamo Valerio da Carrara in linea. 800 24 00 24. Valerio, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, il problema che mi riguarda è questo, non tanto quello che fa bene al cuore, ma quello che non fa tanto bene al cuore, ovvero sia stress eccetera eccetera, che purtroppo in me si accumulano. Sì. Però avevo la curiosità di, io sono tachicardico da sempre, sì? Questo non è una novità. Il problema è controllato in parte con le medicine. La cosa che mi spaventa un po' è il postprandiale del pranzo, che in genere mi porta ad avere una tachicardia maggiore rispetto a finisco 100-110 pulsazioni al minuto nelle ore successive al pranzo, e questo non riesco a spiegarmelo, non me l'hanno mai neanche spiegato a dovere. Vediamo se riesce a spiegarlo la dottoressa Lidia Rotavender. Dottoressa, perché dopo pranzo il cuore di Valerio batte più forte? Allora, sono due le possibilità che io vedo in questo momento, così diciamo presa a bruciapelo. La prima è che quando mangiamo il nostro stomaco si dilata, soprattutto se beviamo acqua mentre mangiamo, quindi cambia improvvisamente la dimensione. Lo stomaco sta esattamente sotto il diaframma. Il diaframma è un grande muscolo fatto a forma di cupola che divide il torace dall'addome, dove stanno l'intestino. Sopra il diaframma è appoggiato il cuore. Quando il nostro stomaco si riempie eccessivamente, si gonfia e quindi rialza il diaframma, e il cuore, che è appoggiato lì sopra, non gradisce. Quindi può darsi che dia dei battiti o accelerati o scomposti. Questa è la prima ipotesi. La seconda, che secondo me potrebbe essere la più probabile, è che quando noi mangiamo lo stomaco in qualche maniera diventa dominatore e sequestra il sangue, cioè aumenta, si prende per sé del sangue, perché siccome lui in quel momento sta lavorando per digerire, provoca questa specie di sequestro di sangue e lo porta via ad altri distretti. Se il cuore ha bisogno di una irrorazione, cioè di un apporto di ossigeno piuttosto importante, come fa pensare il fatto che la frequenza di questo signore sia sempre elevata, come se il cuore avesse bisogno di... il cuore, quando si muove, nutre non soltanto gli organi lontani ma anche se stesso, perché porta sangue anche a se stesso come muscolo. Quindi può darsi che, come succede per esempio nei casi di anemia, la frequenza aumenti. Può darsi che quando il sangue viene particolarmente sequestrato a livello dello stomaco, il cuore non ne abbia più abbastanza e lo reclami, e quindi aumenti la frequenza. Può aiutarci comunque magari cercare di fare dei pasti un pochino più leggeri, mangiare con... più volte al giorno. Vero? Di minore quantità. Dovremmo tutti mangiare 4-5 volte al giorno pasti cosiddetti piccoli, ma più frequenti. 800 24 00 24 per intervenire, 349 238 6666. Alcuni ascoltatori mi dicono: che cosa devo fare per il libro di oggi? Dovete scrivermi un messaggio al 349 238 6666, in cui ci raccontate che cosa fa bene al vostro cuore. Ne stanno arrivando già tanti e sono molto belli, quindi è una sfida molto impegnativa. Il libro di oggi, in collaborazione con IBS, è La ragazza del mio cuore. E noi entriamo nel cuore delle donne, a cui Alta ha dedicato tante campagne, e non solo perché noi abbiamo un cuore grande, ma quanto a prevenzione siamo abbastanza piccole. Dottoressa Lidia Rotavender, ci occupiamo del cuore degli altri e il nostro lo trascuriamo. Questo è un po', no, nelle cose. È vero? Ce l'abbiamo più grande, ma ce l'abbiamo più piccolo di quello degli uomini. Sì. Perché è più piccolo, di fatto. Ma io mi riferivo a un grande, perché le donne, sappiamo, sì, è no? Vero. Sono. Ecco. È così che è grande. Però noi ci trascuriamo un po', e per questo Alt invita le donne a prendersi cura, oltre che del cuore degli altri, del proprio cuore. Dottoressa, lanciamo un appello alle ascoltatrici di Essere Benessere. Quello che si dice è che se non possiamo occuparci degli altri se non ci occupiamo di noi, e per poterci occupare degli altri abbiamo bisogno di stare bene noi, perché altrimenti diventiamo un peso e non diventiamo più una risorsa. Le donne sono state per definizione considerate sempre protette dalle malattie cardiovascolari almeno fino ai 50-55 anni, perché effettivamente hanno meno infarti, hanno meno ischemie, soffrono meno di angina. Nel girare, nell'evolvere di pochi anni però recuperano il gap e vanno alla pari con gli uomini e li superano. Qual è il problema? Il problema è che il cuore delle donne non dà gli stessi sintomi che dà il cuore di un uomo. Una bellissima campagna di prevenzione della Fondazione per il Cuore inglese esordiva in questo modo: se fosse stato mio marito ad avere i sintomi che ho avuto io, l'avrebbero portato immediatamente in unità coronarica, ma siccome io sono una donna, quei sintomi sono stati scambiati per dei sintomi da gastrite. Quindi è molto importante che le donne... Infatti io mi ricordo in una sua intervista che ho letto, che ho sentito, in cui si rivolgeva alle donne dicendo: se avvertite qualche disturbo, qualche sintomo al cuore, fate come farebbe vostro marito, chiamate il 118. È vero, è così, perché purtroppo questo, diciamo, questi sintomi più sfumati fanno sì che il sintomo venga sottovalutato e qualche volta poi l'infarto diventa più devastante e quindi più difficile da curare. Abbiamo avuto una riunione un 20 giorni fa a Sofia Antipolis con la Società Europea di Cardiologia, che è stata proprio convocata per cercare di capire che cosa si può fare a livello europeo per convincere le persone che devono singolarmente fare qualche cosa per proteggere il proprio cuore. E un dato impressionante è che su 4 milioni di morti che ci sono in Europa ogni anno, la stragrande maggioranza di queste morti è legata proprio a problemi di stile di vita, quindi al fumo, al sovrappeso, all'inattività fisica, ed è molto impressionante. Le risorse che ci saranno per curare noi europei saranno sempre meno, perché purtroppo siamo in tanti e le risorse sono sempre meno. Credo che ognuno di noi si debba occupare di se stesso e davvero prendere coscienza del fatto che certi fattori di rischio vanno tenuti sotto controllo da subito, certe abitudini non sane possono non essere prese fin dall'inizio, e diventiamo anche forse un pochino più convincenti anche nei confronti delle nuove generazioni. E noi stiamo imparando a conoscere quello che piace al nostro cuore. Gli piacciono anche delle cose che a noi piacciono in modo particolare, ad esempio il cioccolato. Non avete mai bevuto della cioccolata calda fatta con una ricetta di 2000 anni fa? Secondo lei cosa sembra? Dica la prima cosa che le viene in mente. Una donna su un cavallo selvaggio? Risposta idiota. Non esistono risposte idiote, il triangolo al pepe è quello che le ci vuole. Una punta di peperoncino per contrastare la dolcezza. Piccante, avventuroso. Quanto valgono quei cosi al peperoncino? 4,50 la scatola. Può metterci anche un nastro? Così posso far finta che è un regalo di mio marito. Senz'altro. E questi sono per suo marito. Tronchetti grezzi di cacao del Guatemala, per risvegliare la passione. È ovvio che lei non ha mai conosciuto mio marito. È ovvio che lei non ha mai provato questi. Beh, dottoressa, abbiamo il cioccolato e abbiamo anche l'attività sessuale. Io aggiungerei anche il lato B. Se il lato B femminile è generoso, il cuore si rallegra. Allora, mettiamola in questo modo. Non facciamo confusione. Non è il cioccolato, è il cacao. È il cacao che fa bene al cuore. Perché è ricco di flavonoidi. Perché è il cacao che contiene gli antiossidanti. Poi come il cacao venga trasformato in cioccolato è un processo che può rovinare, diciamo, controbilanciando con un eccessivo apporto di grassi e di grassi non positivi. Ma quello che funziona è il cacao. L'altra cosa che funziona è quello che lei ha detto, ed è una vita sessuale armoniosa. Tempo fa era stato pubblicato proprio un lavoro che aveva dimostrato che un'attività sessuale abituale, costante, e purtroppo per molti, devo dire anche con la partner abituale o con il partner abituale, aveva un effetto positivo sulla salute del cuore. E qui si solleveranno un sacco di reazioni. Perché... Potete scrivercele, però, noi siamo qua. Le situazioni che comportano un atteggiamento emotivo particolarmente impegnativo, perché c'è il segreto, perché c'è la grande emozione, possono essere comportare qualche rischio in più, naturalmente. Mentre un'attività sessuale regolare non solo non è proibita anche a chi ha già avuto l'infarto, cosa che purtroppo molto spesso il paziente teme perché ha paura, invece no, non è per niente proibita. E anche con ALT abbiamo pubblicato una un numero della nostra rivista che si chiama Amore e Problemi di Cuore, che è proprio dedicata a questo argomento di come riprendere un'attività sessuale regolare dopo l'infarto, ma è altamente raccomandata. Andiamo anche al lato B. Molte di noi, molte donne stanno a dieta e cercano di ridurre, no, il lato B, il sedere, perché no, siamo sempre preoccupate della coscia eccetera. Invece delle ricerche dimostrano che il grasso non deve essere eccessivo, che del girocoscia è molto più salutare, utile, fa meglio al cuore di quello addominale. Dottoressa. Sì, perché è quello che fa la differenza fra le donne cosiddette a forma di mela e le donne a forma di pera. Le donne a forma di mela sono quelle che hanno più grasso sull'addome, meno grasso sulle cosce. Le donne a forma di pera hanno più grasso sulle cosce, e sembra che dal punto di vista statistico quelle che hanno grasso addominale, quindi le donne mela, rischino di più di quelle pera. Questo non vuol dire però né che il grasso debba essere eliminato completamente, perché il grasso contiene sostanze molto importanti che servono, perché contiene, riesce a produrre addirittura degli ormoni, ma soprattutto mi spaventa un pochino, e recentemente ne vedo sempre di più, mi spaventa la mania delle giovani donne di non consumare per niente grassi e di avere un livello di colesterolo bassissimo, intorno a 140-150. Io penso che questo sia una tendenza che andrebbe un pochino bloccata, perché il colesterolo, del quale noi abbiamo un livello normale nel sangue che non è 10 ma è 200, sì, è una sostanza fondamentale che serve per costruire non solo le pareti delle cellule ma anche tutti gli ormoni. Non a caso le ragazze che soffrono di anoressia spesso perdono il ciclo mestruale, perché non hanno più la sostanza base per costruire gli ormoni. Quindi tutto con ragionevolezza, i grassi hanno il loro senso, servono, quando sono eccessivi e per troppo tempo rimangono ad alti livelli nel nostro sangue possono provocare aterosclerosi, ma in condizioni normali servono. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. 800 24 0024, torniamo insieme a tra poco. Dottoressa Rotavender, lei ha detto che l'attività sessuale regolare deve essere preferibilmente fatta con il partner abituale. Gli ascoltatori di Essere Benessere si sono ribellati, scatenati. Sto perdendo le cuffie e molti mi chiedono, anzi alcuni in particolare, noto che sono tutti uomini, ma se il partner abituale non c'è? Dottoressa, vabbè, dovremmo aprire una rubrica di posta del cuore, allora, agenzia intanto, matrimoniale intanto, per cuori sani. Intanto non l'ho detta io quella cosa che ho detto prima, nel senso che ho riportato certo, i risultati di una ricerca, certo. Quindi non voglio che se la piglino con me personalmente. l'attività sessuale regolare fa bene al cervello, fa bene al cuore, fa bene al fisico, e se il partner abituale non c'è, ripeto, la cosa importante per essere seri è la componente emotiva che accompagna delle situazioni, fra virgolette, se mi passa il termine un po' sintetico, cosiddette irregolari. Quindi è una... Quindi però se avete bisogno, no, di consigli e indicazioni, noi non possiamo dare oltre che queste. Questo possiamo dire quello che partono, quello che dicono le ricerche. Andiamo alla provincia di Trento. Buongiorno a Chiara. Buongiorno. Io le volevo chiedere una cosa, quasi per scherzo, proprio qualche giorno fa, uno dei miei figli ha provato i battiti con delle cugine a casa di una zia e si è accorto di averli molto alti, cioè lui ha per tutto il pomeriggio e poi li ha provati anche il giorno dopo, aveva fra 80 e 90 battiti. Magari è innamorato, Chiara, a proposito. No, può darsi, magari fosse quello, No, ma il fatto è questo, le volevo dire, devo preoccupare, io mi prenderei subito la visita da un cardiologo, lui per esempio è anche sportivo, va a sciare, fa sci alpino, roccia, non mi sono mai accorta di niente, è nato sano, sì, e perciò io non ho mai fatto nessuna certo visita e neanche mai provato i battiti, insomma l'hanno fatto proprio per gioco e abbiamo scoperto questo. Dottoressa Rotavender, c'è una differenza in base all'età riguardo alla frequenza? Sì, c'è una differenza, in genere le persone giovani hanno dei battiti più frequenti, quindi hanno una frequenza più alta. Questo ragazzo non mi è sfuggito quanti anni ha. 19 anni, e non so quanto è alto, quanto pesa, però potrebbe anche essere, le persone che per esempio sono molto alte hanno bisogno di far raggiungere dal sangue anche i distretti più lontani, e quindi per questione di gravità qualche volta hanno un aumento dei battiti. Le persone che sono anemiche hanno un aumento dei battiti, è uno dei primi rilievi che si fanno quando si sospetta che una persona sia anemica. Chi vive in città e poi si sposta per esempio in alta montagna, cosa che adesso potrebbe capitare a tanti, deve sapere che in alta montagna la tensione dell'ossigeno nell'aria è più bassa rispetto a quella che c'è in pianura, per una questione di atmosfera, anche se l'aria è più pulita, quindi da una parte è bene ma dall'altra la tensione è più bassa. Allora cosa succede? Il cuore ha meno ossigeno, il sangue raccoglie meno ossigeno dall'aria, il cuore ha meno ossigeno e che cosa fa? Aumenta la frequenza per portare più sangue per dare la stessa quantità di ossigeno. Dopo 15 giorni di permanenza in montagna, il nostro midollo osseo, che è la fabbrica dei globuli rossi, ha capito lo stimolo e ha cominciato a produrre più globuli rossi. Insomma, ci mette un po', ma poi si attrezza e lavora. No, però è importante, certo, perché è la ragione per la quale spesso gli atleti vanno ad allenarsi in alta montagna, perché in questo modo stimolano il proprio midollo a produrre più globuli rossi. Quando torneranno in pianura avranno il vantaggio di avere una massa di globuli rossi che trasportano più ossigeno per il loro lavoro muscolare. Chiuderei con una nota colorata. Abbiamo detto che al cuore piacciono i colori rosso, blu, viola, sono i colori che preferisce e sono i colori che noi possiamo portare a tavola con frutta e verdura. Dottoressa? È vero, perché la frutta colorata, peraltro della quale noi abbiamo grande disponibilità, perché per fortuna viviamo in quella parte d'Europa che, alla quale insomma, l'agricoltura fornisce questi prodotti, la frutta colorata contiene queste antocianine che sono dei potenti antiossidanti. Antiossidanti cosa vuol dire? Vuol dire, se mi passate il termine, antiruggine, cioè sono delle sostanze che impediscono che che invecchi troppo precocemente la parete interna dei vasi. Il nostro sistema circolatorio è fatto di vasi come un sistema idraulico chiuso, e questi vasi sono le arterie, le vene e i capillari. Sono foderate di una piastrellatura che si chiama endotelio. Questo endotelio deve rimanere sano, perché se non è sano attiva la coagulazione del sangue e si possono formare trombosi in qualunque distretto. È importante la manutenzione di questo sistema e gli antiossidanti contenuti in questi frutti, soprattutto però se sono freschi, perché i processi di congelamento, conservazione, di maturazione forzata possono rovinare. Riducono un po' questi antiruggine, esatto, la quantità degli antiruggine. Fanno perdere il potere antiruggine, il potere antiossidante, e quindi è molto importante cercare nell'alimentazione quotidiana di avere dalle 4 alle 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Ecco, lo ripetiamo sempre, questo è uno dei consigli che sentiamo sempre dare, molto semplice perché basta andare al mercato esatto, e troviamo tutto, ma come sempre no, le cose troppo facili magari non si seguono, invece sono quelle che ci farebbero meglio. L'SMS che ho scelto tra i tanti è di un ascoltatore che non si è firmato ma lo rintracceremo. Suonare uno strumento musicale mi dà grande soddisfazione e gratificazione. L'ho scelto perché mi ha spiegato che lui si è accorto che si abbassa frequenza e pressione. La dottoressa Lidia Rotavender me lo potrebbe confermare, però non c'è più tempo. Ci sono delle ricerche che proprio confermano questo potere della musica, quindi la ragazza del cuore arriverà a questo messaggio. Noi speriamo di avere presto la dottoressa Lidia Rotavender di nuovo qui con noi. La saluto e la ringrazio. Buon cuore. Grazie a voi. Anche a voi da Nicoletta Carbone, che vi aspetto domani.